Savonarola, il frate che sovrastimò Firenze, prose scelte, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, che aveva circa 40 anni quando Jules Verne pubblicò Dalla Terra alla Luna, che fece favoleggiare la gente su un probabile allunaggio umano che ai loro occhi sembrava molto credibile, e lette da me che da 40 anni la NASA ha pubblicato le foto della Terra e della Luna che fanno favoleggiare la gente su un improbabile allunaggio umano. Che ai loro occhi sembra poco credibile. D'altra parte, la luna non cura la baiar dei cani e comunque tempo, vento, signor, donna, fortuna, voltano e tornano come fa la luna. Serio, capitolo 27. Religioso sarà quella bucaiola della tua sorella. Per ben comprendere quale e quanta fosse l'impressione prodotta dalle prediche del Savonarola, bisognerebbe leggere le lettere che si scrivevano in quei giorni a Firenze. Sembra davvero che i fiorentini non sapessero ragionare d'altro che del frate e che niuno di loro potesse più stare nei limiti del vero. Alcuni dicono che si fa beffe d'una scomunica già arrivata, che tratta il Papa peggio che turco, i principi d'Italia peggio che eretici. Altri assicurano che gli vuole rivelare sul Pergamo i peccati dei suoi persecutori, che s'apparecchia a far nuove e più meravigliose profezie. Chi dice che esso è divenuto il tiranno di Firenze e chi invece che gli fra poco ridurrà a mal partito i nemici della Repubblica se prima non li distrugge con qualche miracolo. Ognuno si aspetta cose grandi e meravigliose. E così, esagerandosi da una parte per odio e malafede e da un'altra per fanatismo e affezione, gli animi si andavano sempre più esaltando e le passioni ricevevano ogni giorno nuovo alimento. Nello stesso tempo cominciava a uscire per le stampe un numero così grande di strani opuscoli che minacciavano quasi voler formare un nuovo genere di singolare letteratura. Da una parte si esaltava insino alle stelle il nome del frate, da un'altra non si trovavano parole, accuse, contumeli e bastevoli per denigrarlo. Invero il merito letterario di quegli scritti non inviterebbe molto a discorrerne, ma pure ritraggono così bene i tempi e gli uomini che dobbiamo fermarci a dirne qualche parola. Uno dei più notevoli fra questi opuscoli si chiamò Oraculum de Novo Seculo. Fu scritto dal Nesi, discepolo assai riputato di Marsilio Ficino e tutto pieno delle sue idee neoplatoniche. Il titolo stesso del libro dava subito a conoscere l'autore per un seguace del Savonarola. Si discorre infatti di una strana visione in cui il Nesi, trasportato in un altro mondo, ragiona a lungo con le ombre di Enea e di Platone, il quale ci viene descritto come precursore del cristianesimo. L'autore incontra poi il gran pico della Mirandola che, menandolo per le sfere celesti, gli mostra in esso un riscontro della dottrina del Savonarola, e mentre continuano questo celeste viaggio il pico esalta l'ingegno, il cuore e il carattere del frate. Un predicatore in san spirito attaccava la nuova dottrina, scagliava ogni giorno ingiurie contro al Savonarola e lo sfidava a entrare nel fuoco. Questi invece lo disprezzava e non faceva alcun caso delle sue parole, ma ecco subito venire in risposta a un opuscolo di Messer Filippo Cioni, notaio fiorentino, che prendeva la difesa del frate. Un altro avversario, per poterlo vi è meglio ferire, pensa di fingersi suo seguace e stampa una lettera nella quale, sotto forma di dubbi, ripete le solite accuse che si fanno contro al Savonarola, che gli cioè semina scandali nella chiesa, disobbedisce a Roma, si chiama profeta e via discorrendo. Domenico Benivieni, fratello del poeta e autore di un gran numero di scritti religiosi, smascherava subito la grossolana ipocrisia dell'anonimo con una sua epistola. Veniva poi con molti dialoghi e trattati a difendere la dottrina e le profezie del Savonarola. E mentre questa discussione s'era animata, ecco venir fuori un tal frate Angelo Anacoreta che, dall'eremo di Vallombrosa, indirizzava per le stampe lettere ai governi d'Italia. Ai signori e popolo di Firenze riconfermava le promesse fatte dal Savonarola e, pretendendo ad una particolare ispirazione delle sacre carte, assicurava di aver trovato nell'Apocalisse la predetta discesa di Carlo VIII in Italia e il suo passaggio in Oriente per ristabilirvi l'impero cristiano. Diceva anche di aver scritto alle chiese d'Africa e di Asia per annunziare questi prossimi eventi. Al Senato e Doge di Venezia mandava un'altra lettera per disapprovare la loro politica e quella della Lega che, opponendosi a Carlo, si opponeva alla volontà del Signore che lo aveva eletto a questa impresa. Singolare veramente era questo frate che dal suo eremo enumerava le forze del turco e quelle di Francia, discorreva le probabilità e le conseguenze d'una guerra in Oriente. La politica era divenuta allora d'universale interesse, né si trovava alcuno che non mulinasse nella mente i suoi piani e disegni dell'avvenire. Gli uomini d'ogni partito avevano preso in mano la penna. Gli opuscoli politici infatti cominciavano ogni giorno a moltiplicare e con essi gli arrabbiati davano sfogo alle loro passioni, all'odio irrefrenabile che avevano contro al Savonarola. Già che tentavano frequentavano ogni via non tralasciavano alcuna arma che potesse ferirlo. Tutti i giorni gli otto scoprivano nuovi attentati contro la sua vita e dovevano spesso mettere qualcuno alla fune, né, a quanto diceva, si mancarono dei casi in cui il delitto fu così presso a compiersi che bisognò pronunziare la sentenza di morte. Non perciò gli arrabbiati si spaventavano, anzi procedevano oltre con uguale ardimento, e quando non potevano usare il ferro si valevano della penna, come bisognava fare adesso che il frate si era, a causa dei brevi di Roma, ritirato nel suo convento. Furono epistole in verso e in prosa, sonetti, canzoni, frottole, ogni forma di scritto in cui si potessero mettere assieme ingiurie contro di lui. Quando consideriamo questi scritti e i molti altri che andavano allora per le mani di tutti, noi vediamo subito la gran differenza che passa fra quelli degli arrabbiati e dei piagnoni. L'onestà e la buona fede senza dubbio coi seguaci del frate. I suoi avversari esagerano, calunniano, fingono, non credono a loro stessi. Se poi lasciati da parte gli scritti di questi ultimi ci facciamo a considerare solamente i primi, noi li troveremo allora divisi in due ordini assai distinti, politici e religiosi. È il popolo che ragiona di politica, sono i dotti che discorrono di religione. Questo perché i fiorentini furono un popolo essenzialmente politico, onde avevano subito ripresa l'antica loro indole ed ora sembrava quasi che la Repubblica non avesse mai cessato di esistere. Se noi vediamo che il popolo, sentendosi quasi profano, non piglia mai la penna per scrivere di religione, esso è invece occupato tutto il giorno a ragionare e a scrivere di politica. Gli manca l'ortografia e la grammatica, ma tanto più ingenuamente manifesta la sua indole. È sempre pieno di ardore, di vita e di spontanea originalità. Che se poi ci venisse domandato se in questo ride starsi dello spirito fiorentino i dotti si occupavano di politica e qual era il merito dei loro scritti, dovremmo allora rammentare che il genio dei Machiavelli, Guicciardini e Giannotti incominciava a sorgere con questa Repubblica, si spandeva al sole di questa libertà, e che essi furono senza alcun dubbio figli della rivoluzione del 94, di quella rivoluzione dal frate iniziata. Noi troviamo in vero la vita politica attiva e fiorente in ogni sua parte. Le nuove leggi e riforme si discutono con meravigliosa perizia, si vincono con facilità grandissima, sorge una gioventù novella e gli uomini maturi paiono consumati al governo degli stati. Nemmeno felicemente procedevano le cose della guerra. Piero Capponi, che ne era l'anima, acquistava al campo di Pisa un nome sempre maggiore, e quello del valoroso Antonio Giacomini era già divenuto illustre. Tutte le cose si conducevano in maniera da rendere onore ad ogni più agguerrita repubblica, nonché ad una che aveva scosso appena il giogo d'una servitù di 60 anni. E di questo così gran vigore di libertà principale autore fu il Savonarola, che fondò la Repubblica. Egli l'aveva quasi ritrovata nell'indole stessa del popolo fiorentino, a cui subito era divenuta tutta naturale. Essa infatti sopravvive alla morte del frate, spenta dalla forza di molti nemici, risorge più gloriosa, circondata di nuovo da eserciti potentissimi deve cadere, ma la sua caduta è eroica e la sua gloria rimane eterna. Assai muta l'aspetto delle cose quando si rivolge lo sguardo alla vita religiosa di questo popolo. Noi vi troviamo qualche cosa di effimero e di forzato che non sapremmo definire, ma di cui ognuno si avvede quando legge le storie di quei tempi e gli scritti religiosi dei seguaci del Savonarola. Essi non sanno fare altro che riprodurre languidamente le idee del maestro, ripetere senza calore le sue parole. Dalla loro mente non esce mai un pensiero originale, dalla loro penna non cade mai una parola energica. Questo popolo, che si dice rinato alla religione, non ha saputo lasciare ai posteri nessun monumento della sua fede. Il Savonarola è il solo personaggio veramente e grandemente religioso. Egli sembra il solo uomo reale in mezzo a un mondo mutabile di sogni che svaniscono. Non è già che grande non sia la riforma religiosa, non è già che universale non sia il miglioramento della morale, ma questo popolo che corre così spontaneo alla libertà ha bisogno, per mantenersi saldo nella fede, di udire ogni giorno le prediche del frate. Quando egli si tace risorgono subito i vizi e la miscredenza. Ognuno si avvede che a lui sopravvive la Repubblica, ma non la religione fiorentina. Sebbene il Savonarola volesse nasconderlo a se stesso, dovette pure più volte avvedersene. Muoveva allora amari rimproveri contro quel popolo che tanto amava, minacciava la terribile ira del Signore e diceva che le promesse felicità si sarebbero mutate in spaventosi flagelli. Ma aveva troppo bisogno di credere e sperare in quella moltitudine, e il corso naturale delle cose era d'altronde così inevitabile che trascinava fatalmente anche lui. Egli aveva cominciato a parlare di religione e di morale e i fiorentini si erano svegliati all'amore della libertà. Li aveva aveva allora secondati col consigliare fondare la nuova repubblica e subito divenne l'idolo della moltitudine. Ma quando volle che la politica e la libertà servissero alla religione, i fiorentini invece facevano servire la religione alla libertà. Ogni volta che il frate perdeva affatto di mira la politica, l'attenzione dell'uditorio lo abbandonava. Egli veniva quindi costretto a proclamare Gesù Cristo re di Firenze, a fare che la Vergine consigliasse sul Pergamo la nuova Costituzione e che il Signore comandasse l'abolizione dei parlamenti. Doveva continuamente paragonare il nuovo governo a quello delle gerarchie angeliche, i vari giorni della rivoluzione fiorentina alle sette giornate della creazione. In sostanza, il Savonarola, che sembrava essere un uomo onnipotente sui fiorentini, aveva trovato un ostacolo insuperabile nel loro indifferentismo religioso, il quale era la sola parte dell'opera dei Medici che non gli poté mai riuscire di distruggere affatto. Quel popolo correva dal dubbio al fanatismo e dal fanatismo ritornava al dubbio, senza che egli potesse mai renderlo veramente religioso per quanto vi si fosse adoperato. E questo è un fatto di un'importanza gravissima che merita di essere seriamente considerato, perché solamente esso potrà darci la chiave a comprendere lo scioglimento inaspettato di questo singolare dramma della vita del frate. Egli volle essere il rinnovatore della religione, ma il popolo fiorentino volle in lui adorare il fondatore della Repubblica. Lo difendevano con tanto ardore contro al Papa perché questi voleva portare i Medici a Firenze, perché la causa del frate era divenuta la causa della libertà. Ma il giorno in cui Alessandro Borgia, il quale non pensava egli stesso gran fatto alla religione, fosse riuscito a separare l'una cosa dall'altra, il Savonarola non avrebbe potuto più contare sullo stesso ardore e sul medesimo zelo. Il terreno avrebbe tremato sotto ai suoi piedi.